Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Il diabete si cura anche con lo spazzolino. A Obiettivo Salute il presidente dell'Associazione Medici Diabetologi, dottor Domenico Mannino. Il diabete si cura anche tenendo in ordine la bocca e i denti, perché esiste una relazione tra diabete e la salute della bocca. Una relazione che può sembrare strana, ma è una relazione bidirezionale, perché chi ha il diabete ha la possibilità di avere le malattie del cavo orale, come per esempio la parodontite, in misura maggiore, da 2 o 3 volte maggiore rispetto a un soggetto non diabetico. Peraltro chi ha la parodontite ha un rischio aumentato di insorgenza di diabete. Quindi, ed esiste peraltro una relazione diretta fra gravità e estensione della parodontite e peggioramento del controllo glicemico, del controllo metabolico in generale. La caccia all'Alzheimer riparte dai batteri dell'intestino. I ricercatori sono impegnati a capire se la presenza e l'abbondanza di certi batteri nell'intestino possa anche contribuire allo sviluppo della malattia. Obiettivo Salute, Anna Maria Cattaneo, responsabile del laboratorio di psichiatria biologica al Fate Bene Fratelli di Brescia. Diciamo che i batteri che sono presenti nel nostro intestino influenzano il nostro cervello attraverso diversi organi come è il sistema immunitario e il sistema infiammatorio. Noi vogliamo capire proprio la relazione tra questi batteri e il sistema infiammatorio, perché alcuni batteri più infiammatori possono appunto contribuire direttamente alla malattia di Alzheimer, così come anche in altre malattie neurodegenerative come ad esempio la malattia di Parkinson. E proprio di microbiota parliamo nella nostra diretta video con il professor Lorenzo Morelli. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 continua con Melog. Io vi aspetto in diretta video. Buonissima giornata da Nicoletta.